Questa è la seconda puntata invece. Sì. Anni dopo. Anni dopo è il confessore. Padre. Dite il confiteor. L'ho detto. L'atto di contrizione? Già l'ho fatto. Avanti dunque. Ho detto cazzo matto a mio marito e gli ho alzato un grossetto. E poi? Per una pila che mi rompe il gatto, gli disse fuori di me, sì maledetto, è creatura di Dio. C'è altro? Tratto un giovenotto e ci sono io dal letto. E lì cos'è successo? Un po' di tutto. Cioè? Sempre mi immagino per dritto. Puro a riverso. Questo è peccato brutto. Dunque, in causa di questo giovanotto, tornate, figlia mia, con cuore trafitto, domani a casa mia verso le 8. Oh, eccoci qua. Allora, adesso... Io se ci riesco a combattere questo microfono che è stata la vera star della serata. Un incontenibile microfono. Così. Cioè, mi vedete? Allora io vorrei... Aspetta, faccio così. Guarda, faccio bene, ok. Allora, questa è una favola della tradizione romana trascritta da Zanazzo. Si chiama La torta. C'era una volta una vecchia, minecchia, buffecchia, col cirunculunchecchia, col firunfurunfecchia. C'era una volta una vecchia. Vinneno tre fanti, minanti, buffanti, col cirunculuncanti, col firunfurunfanti. Vinneno tre fanti e dissero, vecchia, minecchia, buffecchia, col cirunculunchecchia, col firunfurunfecchia. Dissero, vecchia, facce una torta. Minorta, buforta, col cirunculuncorta, col firunfurunforta, facce una torta. Gli rispose la vecchia, minecchia, buffecchia, col cirunculunchecchia, col firunfurunfecchia. Gli rispose la vecchia, portatemi l'ova. Minova, buffava, col cirunculuncava, col firunfurunfava, portatemi l'ova. Che ve farò la torta, minorta, buforta, col cirunculuncorta, col firunfurunforta, che ve farò la torta. Allora i tre fanti, minanti, buffanti, col cirunculuncanti, col firunfurunfanti, allora i tre fanti gli portorno l'ova, minova, buffova, col cirunculuncova, col firunfurunfova, gli portorno l'ova. La vecchia, minecchia, buffecchia, col cirunculunchecchia, col firunfurunfecchia, la vecchia gli fece la torta, minorta, buffata, col cirunculuncorta, col firunfurunforta, gli fece la torta. La messe sul tetto, minetto, buffetto, col cirunculunchetto, col firunfurunfetto, la messe sul tetto, venne un gatto, minatto, buffatto, col cirunculuncatto, col firunfurunfatto, venne un gatto e gli se mangiò la torta, minorta, buffata, col cirunculuncorta, col firunfurunforta, gli se mangiò la torta. Rivennero i tre fanti, minanti, buffanti, col cirunculuncanti, col firunfurunfanti, rivennero i tre fanti e gli dissero, vecchia, minecchia, buffecchia, col cirunculunchecchia, col firunfurunfecchia, gli dissero, vecchia, dacce la torta, minorta, buffata, col cirunculuncorta, col firunfurunforta, dacce la torta. Rispose la vecchia, minecchia, buffecchia, col cirunculunchecchia, col firunfurunfecchia, rispose la vecchia, l'ha messa sul tetto. Minetto a buffetto, col cirunculunchetto, col firunfurunfetto, l'ha messo sul tetto. Mi è venuto un gatto, minato e buffetto, col cirunculunchetto, col firunfurunfetto, è venuto un gatto. E mi si è mangiata la torta. Minorta, buffetto, col cirunculunchetto, col firunfurunfetto, mi si è mangiata la torta. Dissero i tre fanti, minanti, buffanti, col cirunculunchetto, col firunfurunfetto, dissero i tre fanti. Ta riporteremo l'ova, minova, buffava, col cirunculuncava, col firunfurunfava, ta riporteremo l'ova. Ma bada vecchia, minecchia, buffecchia, o cirunculunchecchia, col firunfurunfecchia, ma bada vecchia, de faccio trovare la torta, minorta, buforta, col cirunculuncorta, col firunfurunforte, faccio trovare la torta. Infatti i tre fanti, minanti, buffanti, col cirunculuncanti, col firunfurunfanti, infatti i tre fanti, e riportorno l'ova, minova, buffava, cirunculuncava, col firunfurunfava, riportorno l'ova. Allora la vecchia, Minecchia, buffecchia, ciro crucchecchia, filo furfecchia. Allora la vecchia rifece la torta, minorta, bufforta, con ciro crucchetta, col filo furforta, rifece la torta. La rimise sul tetto. Minetto, buffetto, con ciro crucchetto, col filo furfetto, la rimise sul tetto. Ma rivenne il gatto, minatto, buffato, ciro crucchetto, col filo furfatto, rivenne il gatto. E io se mangiò la torta, minorta, bufforta, con ciro crucchetto, col filo furforta. Io se rimagnò la torta. Arrivennero i tre fanti, minanti, buffanti, col ciro crucchetto, col filo furfante. Arrivennero i tre fanti e disse una vecchia, minecchia, buffecchia, ciro crucchetto, filo furfecchia, disse una vecchia. Dacce la torta, minorta, buffata, col ciro crucchetto, col filo furforta, ridacce la torta. Ah, rispose la vecchia, minecchia, buffecchia, ciro crucchetto, col filo furfecchia, rispose la vecchia. L'ha rimessa sul tetto, minetta, buffetto, col ciro crucchetto, col filo furfetto, l'ha rimessa sul tetto. Ma è venuto il gatto, minato, buffato, col ciro crucchetto, col filo furfetto, è venuto il gatto. E mi si è mangiata la torta, minorta, col ciro crucchetto, col filo furfetto, mi si è mangiata la torta. Allora i tre fanti, minanti, buffanti, col ciro crucchetto, col filo furfetto, allora i tre fanti gli dissero: brutta vecchiaccia, minaccia, buffaccia, col ciro crucchetto, col filo furfetto, brutta vecchiaccia, ah, ripagheci la torta, minorta, buffarta, col ciro crucchetto, col filo furfetto, ripagheci la torta. E intanto li fanti, minanti, buffanti, col ciro crucchetto, col filo furfetto, intanto li fanti presero un bastone, minone, buffone, col ciro crucchetto, col filo furfone, presero un bastone e gli dettero un sacco, minacco, buffacco, col ciro crucchetto, col filo furfacco, gli dettero un sacco di bastonate, minate, buffate, col ciro crucchetto, col filo furfetto, le bastonate. E la vecchia, minecchia, buffecchia, col ciro crucchetto, col filo furfetto. La vecchia morì, minì, buffì, col ciro crucchetto, col filo furfetto. La vecchia morì, si scannata gliel'ha fatta.